Le 9, sabato mattina, 5 settembre. Sulla terrazza dell'albergo, a colazione. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, Sara. Come sta? Bene? Oh yes, bene, grazie. Have some breakfast. Colazione? No, grazie. Non faccio mai colazione. Nothing at all. Prendo solo un caffè e a volte mangio qualcosa più tardi, verso le 10. E lei? Cosa mangia? Oh, just pane, burro e, come si dice? Jam. Marmellata? Isn't that marmalade? No, marmalade si dice marmellata di arance. Arance? Oranges? Esatto. E il cappuccino, le piace? Oh sì, mi piace molto. E, come si dice? Cereal. I cereali. Cereali. Mi piace cereali. Mi piacciono. Mi piacciono i cereali. Plurale. Mi piacciono i cereali. Ok? Perfetto. Le piace il panorama di giorno? Sì, mi piace. So hot and sunny. And I left my sunglasses in England. Ma non è un problema. Può comprare gli occhiali da sole qui. That's a good idea. Sì, è una buona idea. Andiamo al negozio di Giovanni. È un amico. But what about the wine fair? C'è tempo. Ci andiamo più tardi.